ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Bonaldo, design tra innovazione e tradizione dal 1936, di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi arriva da uno dei distretti industriali più importanti del nostro paese, il Nord-Est. Siamo in provincia di Padova. Qui nel 1936 Giovanni Vittorio Bonaldo si dà alla lavorazione dei metalli. I primi prodotti sono reti, materassi e letti. Poi, col passare del tempo, l'azienda si evolve fino a diventare uno dei nomi più prestigiosi del design italiano. A rivelarci come si è arrivati in quasi 90 anni a questo risultato è Alberto Bonaldo, nipote del fondatore e managing director dell'azienda di famiglia. Il nonno appunto inizia l'attività nel 1936, Giovanni Vittorio, era un'attività prettamente artigianale, era il fabbro. Noi qui siamo nella provincia di Padova, quindi con vasti terreni, diciamo, e l'attività principale era la lavorazione del ferro e della lamiera per l'uso agricolo, diciamo. Attraverso l'esperienza della lavorazione, diciamo, di questo materiale, il ferro sia in un tubolare che in lamiera, nasce l'idea di produrre un primo prodotto, che era la rete da letto, che era un prodotto relativamente semplice da produrre, diciamo, in chiave artigianale, che è diventato un po' più complicato poi per produrre in chiave industriale. La svolta, diciamo, che è stata la volontà e la capacità di reinvestire sempre in tecnologia attraverso una continua ricerca, attraverso una ricerca, diciamo, della innovazione, per creare appunto questo primo prodotto. Pochi anni dopo l'attività viene interrotta. Arriva la Seconda Guerra Mondiale, a cui Giovanni Vittorio viene chiamato a partecipare. I ricordi tramandati fino a oggi sono quelli della paura per i bombardamenti e delle fughe nelle sterminate campagne venete per scampare agli attacchi nemici. Finita la guerra, la piccola attività riprende a operare, godendo negli anni successivi del favore del boom economico. Qualche tempo dopo, in azienda, arriva Albino, figlio di Giovanni Vittorio. Il passo, diciamo, successivo è dovuto quello al boom degli anni 70, diciamo, dal fine anni 60 e inizio degli anni 70, con l'ingresso nella compagine anche di mio padre, e si è iniziato a una prima diversificazione di carattere produttivo, cioè una volta maturata una esperienza nella lavorazione, diciamo, del tubolare metallico, si è iniziata la creazione dei primi tavoli e delle prime sedie. Una volta maturato quindi un know-how di carattere produttivo, messa a frutto questa esperienza e questa ricerca, diciamo, nella lavorazione del metallo, con l'ingresso di mio padre in azienda abbiamo iniziato a entrare, diciamo così, nel settore dell'arredamento. Un ulteriore step, diciamo, è quello che è stato dettato da un punto di vista commerciale, cioè vi era la necessità di coprire un'offerta che fosse sempre più ampia, cioè di non andare a vendere solo i tavoli e le sedie, ma di andare a vendere un catalogo completo. E quindi da lì era nata, dagli anni 70 agli anni 80, la creazione dei primi divani, dei primi letti, dei primi complementi e dei primi accessori. La diversificazione dell'offerta porta alla diversificazione della produzione, con la nascita di aziende satelliti della Bonaldo per ogni tipo di prodotto. La necessità di rafforzare un unico brand a livello comunicativo, però, porta a un piano di riorganizzazione e di concentrazione in capo all'azienda madre, che è la Bonaldo di oggi, e che ha via via inglobato le altre aziende. arriviamo agli anni 2000 con l'ingresso in azienda di Alberto Bonaldo. Ho respirato sempre fin da piccolo l'interno di una fabbrica, di un capannone, e quindi è stata per me una naturale, diciamo, esperienza. Non ho mai, diciamo così, pensato oppure desiderato di fare altro se non magari piccoli ricordi di bambino, la volontà di fare delle altre cose, perché comunque, diciamo, la mia crescita si è svolta all'interno di una realtà produttiva. Ho fatto studi di economia aziendale ed ho cominciato subito all'età di 26 anni all'entrare all'interno dell'azienda, passando del tempo nelle varie aree aziendali, iniziando dalla parte amministrazione e finanza per passare poi alla parte produttiva, in seguito poi alla parte commerciale e poi alla parte ricerca e sviluppo, marketing e comunicazione. Diciamo che ho sempre viaggiato molto, e questa è stata l'esperienza più utile e più bella, diciamo, per acquisire conoscenza e per dare supporto alla crescita dell'azienda. E quindi questo mi ha consentito appunto di maturare un'esperienza confrontandomi con numerosi dealer che poi sono stato in grado di riportare all'interno dell'azienda. Il passaggio generazionale tra padre e figlio avviene 10 anni fa, ma non è stato semplice. Se Albino è ancorato all'ottimizzazione dei processi di produzione, il figlio punta a ricerca e sviluppo, comunicazione e marketing. La nuova direzione scelta da Alberto è quella della qualità a ogni costo, sacrificando la quantità. Divergenze superate e ricordate ormai col sorriso, con Albino che ancora oggi va in azienda per dare il proprio supporto al figlio e ai collaboratori. Negli stessi anni arriva la crisi economica. E il momento di quella crisi l'abbiamo sentita molto, con perdite anche importanti di fatturato che hanno portato anche a una riorganizzazione dell'azienda. Ci ha spaventato di più all'inizio degli anni 2000, quando non avevamo maturato la consapevolezza che si poteva fare un prodotto di qualità, oppure che dire 100% made in Italy aveva un valore spendibile nel mercato. In quegli anni non le nascondo che c'è stata la paura che la Cina da lì a 10 anni avesse potuto uccidere tutta la manifattura nel mercato Italia. Lì ci sono stati alcuni momenti in cui l'ho pensato. Quindi tutto quello che è stata una crisi di carattere worldwide l'abbiamo affrontata da buoni veneti, rimboccandoci le maniche e niente, concentrandoci sul nostro lavoro, cercando di velocizzare lo sviluppo di nuovi prodotti, proponendo delle cose nuove, facendo una maggiore attenzione al prezzo e cercando di sacrificare i margini per i primi anni, insomma. Negli anni 2000 Bonaldo inizia a esportare i propri prodotti, una scelta che porta il marchio a crescere con una presenza in 80 paesi. I mercati esteri rappresentano il 70% del fatturato totale, che quest'anno ha raggiunto i 24 milioni di euro. La svolta dell'export è legata a quella più recente del consolidamento della brand identity dell'azienda, che apre in giro per il mondo negozi monomarca e corner shop. È storia degli ultimi 5 anni, diciamo, attraverso la creazione di un percorso, di una brand identity che è stata finalizzata alla creazione di un corner, di uno spazio che esprimesse i valori e l'attenzione che ha Bonaldo nel mood dell'arredamento. Questo ci ha permesso di poter esportare questo modello nei paesi worldwide. I primi paesi più ricettivi, diciamo così, di queste politiche, di queste strategie sono state sicuramente la Cina e via via poi tutti gli altri paesi del Far East, che va da Tokyo, Taiwan, Singapore, Hong Kong, in Malesia, Australia, poi c'è il Middle East, Dubai in primis ed anche Arabia Saudita e Qatar, e Europa, ecco, è già un po' più difficile, abbiamo numerosi corner, però abbiamo iniziato anche lì la politica dei monomarca, è una mappatura worldwide, ovviamente in Asia è più facile perché sono dei mercati vergini, chiamiamolo così, dove non c'è una storia di una politica distributiva, però ci stanno dando molte molte soddisfazioni. Oggi l'azienda ha 2 stabilimenti produttivi e dà lavoro a oltre 100 persone che, sotto la guida di Alberto Bonaldo, voce narrante di questa storia, mettono il loro impegno nella costante ricerca di nuove soluzioni e materiali, coniugando tradizione e innovazione. La sfida per i tempi odierni e anche per il futuro non sta solo nella qualità del prodotto, ma anche nella comunicazione. Soprattutto nei paesi del Far East, ma anche, posso dire, worldwide, no? C'è la fame, c'è la voglia di contenuti, di creare dei video che possono essere proiettati all'interno del negozio, avere degli strumenti sempre più multimediali, avere dei configuratori che permettano di far vedere ai clienti, avendo una pluralità di offerta di materiali, di varianti, di colori, di pelli, di tessuti, come viene, come sarebbe il prodotto nella così come è immaginato dal consumatore finale. Avvicinare sempre di più anche gli architetti e i designer nostri con gli architetti e i designer che vanno a fare progettazione di case, di ambienti, creando dei momenti di incontro, dei webinar in cui gli architetti nostri possono parlare, possono spiegare perché hanno prodotto un prodotto invece di un altro. Quindi è tutto questo mondo al quale stiamo cercando di prestare una attenzione sempre maggiore. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.